Allora, dunque, sono giunte notizie, insomma, da Brescia e adesso cerchiamo di fare un po' di chiarezza col compagno che è collegato al telefono. Ciao. Ciao, una buona giornata a tutti e a tutti. Ciao, buon 14 novembre. Allora, com'è andata questa mattina? Sì, questa mattina, ancora alle prime ore del mattino, è giunta la notizia, la realtà di movimento che si stavano concentrando in Piazza Garibaldi per il corteo autonomo, separato invece da quello organizzato dalla CGIL. Tre attivisti di movimento, due compagni e un compagno, sono stati prima fermati dalla polizia municipale lungo via Triumplina, che è la principale strada d'accesso a Brescia venendo da nord. L'accusa nei loro confronti è quella di avere dato fuoco ad alcuni copertoni lungo la strada, nelle mobilitazioni che chiaramente rientrano all'interno di questo 14 di novembre. Sono stati fermati dalla pattuglia polizia locale, che li ha condotti nel comando di polizia locale, e a questo punto è stato il magistrato, in maniera velocissima, ha convalidato gli arresti per loro, appunto per questa accusa di cui vi parlavo, e ha disposto i domiciliari per loro, e domani mattina si dovrebbe tenere, anzi si terrà, il processo per direttissima. Per questo è l'aspetto prima del corteo. Il corteo, che è composto da almeno 2000 fra studenti, attivisti per il diritto alla casa e realtà di movimento, ha quindi deviato già all'inizio dal percorso, recandosi sotto il comando della polizia locale per esprimere solidarietà a questi tre compagni e compagni. Da lì poi è proseguito lungo il ring, cioè la tangenziale interna di Brescia, giunti in Piazza Repubblica, ha deviato e si è recato davanti alla stazione ferroviaria, si è trovato di fronte a uno schieramento veramente massiccio di cenere. Sono state almeno due serie di cariche estremamente violente, con numerosi attivisti feriti. Il corteo comunque non ha indietreggiato, sono stati ripetuti fronteggiamenti. Proprio in questo istante il corteo sta nuovamente cercando di entrare all'interno della stazione ferroviaria. Alcuni compagni e compagne sono riusciti ad entrare per bloccare anche la stazione ferroviaria di Brescia, altri invece sono trattenuti all'esterno sempre dall'ingente schierimento di polizia. Questo è un po' il quadro in questo momento a Brescia, una giornata che è iniziata con un tasso di conflittualità estremamente alto, e fra i dati positivi c'è la presenza davvero massiccia di piazza, soprattutto una presenza estremamente determinata per quella che gli attivisti hanno ribadito voler essere un'intera giornata di mobilitazione, quindi non solamente il classico corteo, all'interno anche di quella logica di occupazione delle pratiche di sciopero di cui si è molto discusso negli ambiti di movimento. Va bene, grazie tanto per questa corrispondenza, insomma, proprio perché questa notizia, ad esempio, degli arresti è di fatto sfuggita a tutti i media che stiamo consultando, e quindi insomma era necessario comunicarla. Peraltro accuse, insomma, abbastanza ridicole, insomma, no? Questa roba dei copertoni bruciati. Esattamente, anche perché appunto queste sono le accuse a cui poi si abbinano, classico travisamente, qualche altro reato di default, queste accuse di default che vengono date in tutti questo tipo di circostanze. E la notizia è stata presa dagli ambiti di movimento direttamente da questi compagni e compagne, poi anche dall'avvocato di movimento, che si è subito recato ovviamente al comando di polizia locale per seguire da vicino la vicenda. Va bene, grazie Daniele. Noi più tardi ci colleghiamo con la piazza di Brescia, che è ancora, insomma, è in fervente mobilitazione. Quindi ci colleghiamo più tardi. Sarà una lunga giornata, sicuramente. Ciao, grazie.